Allora, corteo dell'8 marzo, sanitari per Gaza. Sì, sono Francesca, io ho già parlato su Radio Onda Rossa, siamo amici, compagni. Io dico che noi ci siamo a questo corteo femminista, transfemminista, perché la libertà dei popoli passa attraverso l'emancipazione e la libertà delle donne. Questo è un tema che bisogna che tutti i popoli del mondo, soprattutto gli oppressi, lo capiscano bene, e lo devono capire anche i nostri oppressori, che sono sia maschi che donne. Alcune, alcune. No, come dire, donne non si nasce, si diventa, esatto, mettiamola così. Esatto, esatto. Quindi noi siamo qui perché in realtà è una rete che è nata molto spontaneamente con un tam tam, attraverso telefonate, attraverso ognuno ha coinvolto altri colleghi, medici, infermieri. Io ci tengo a precisare che siamo operatori, operatrici sanitari di tutte le professioni sanitarie. E siamo nati spontaneamente sotto Natale, perché non potevamo assistere inermi senza far sentire la nostra voce, il nostro sostegno, il nostro supporto al popolo palestinese e a Gaza in particolare. È nata a livello locale in varie città d'Italia, in varie regioni, ma c'è anche la rete nazionale e addirittura si sta sviluppando anche una rete europea. Quindi siamo qui per dare voce, fare da megafono a tutto il popolo palestinese. Poi portiamo la nostra voce, che in qualche modo è la loro, ma ci sono anche compagni palestinesi, medici palestinesi, sanitari palestinesi all'interno del nostro gruppo. Stiamo premendo sugli ordini professionali per far sì che loro, come organi sussidiari dello Stato, io questa è una cosa che ci tengo a dire, diano la loro voce e facciano pressione sul governo per chiedere, soprattutto un governo come questo di destra, che invece deve promuovere la pace, ma deve promuovere soprattutto il cessato il fuoco immediato e permanente. Senti, vuoi rilanciare anche la campagna di boicottaggio contro Teva? Certo, questa è domani è la giornata di mobilitazione nazionale. Noi abbiamo preparato dei volantini e in varie città d'Italia si faranno piccoli presidi davanti alle farmacie, davanti agli ospedali. Noi parteciperemo alla manifestazione domani, che ci sarà, perché e distribuiremo anche i volantini lì contro Teva, perché è una grande multinazionale farmaceutica israeliana, e la gente deve capire che se si preme su queste, toccando le corde dei soldi, perché questi capiscono solo i soldi, magari Teva dice: ma che fate a Netanyahu, ci fate perdere un sacco di guadagno in questo modo. Quindi ecco, lo scopo è questo, è consigliare a tutti i pazienti, e noi già lo stiamo facendo, che non ci sono solo i prodotti Teva, che possono essere sostituiti benissimo, però per dare un segnale a Israele, al governo di Israele, attenzione, al governo di destra di Israele. Ricordiamo insomma che è facile boicottare Teva quando ti chiedono: vuoi il farmaco generico? Sì, ma non Teva. Esatto, grazie. Esatto, grazie a te, grazie.